dopo, come l'abbiamo chiamato, prologo itinerante, dopo la passeggiata degli orrori del centro storico di Firenze, sperando di poter ribaltare anche questa situazione, perché siamo qui appunto per questo, no? E siamo qui non soltanto come rete set di Firenze, cioè la rete delle città del sud Europa di fronte contro il processo devastante di turistificazione delle città e dei territori, ma siamo anche come rete set Italia con i rappresentanti delle città che partecipano alla rete set Italia. Il tema, ecco, questo è il secondo incontro della rete set, in realtà il terzo, perché la prima volta ci siamo visti a Venezia con Maria Fiano e con i veneziani, ed era lo scorso inverno, se non sbaglio, l'estate del... Sì, però il tema era sui beni comuni, c'era una riflessione sui beni comuni che ci riguarda da vicino, e anche lì abbiamo potuto verificare lo stato dell'arte, degli abbandoni, delle espropriazioni, di cosa sta accadendo e accade a Venezia. Io penso che queste informazioni, questa consapevolezza debba circolare tra le varie realtà. Poi ci siamo visti lo scorso ottobre, ci siamo visti a Napoli, in realtà era il primo incontro ufficiale della rete Serra, il secondo. È stato davvero interessante, ben organizzato, quindi impeccabili i set napoletani, intorno a quattro tavoli. Abbiamo riflettuto intorno alla questione delle abitazioni, certo la turistificazione crea il problema, soprattutto poi la presenza delle piattaforme e delle locazioni turistiche crea dei grossi problemi sulla disponibilità, altera l'equilibrio del mercato immobiliare ed espelle quote crescenti di popolazione. Poi l'altro tavolo era sulla questione del lavoro, che è precarizzato e razzializzato all'interno dei territori turistificati. Si è parlato della militarizzazione e della sottrazione degli spazi pubblici, che è un fenomeno comune a tutte le città turistificate. E infine anche un aspetto molto interessante era quello sulla narrazione tossica, cioè come viene presentata la turistificazione. Turistificazione è sinonimo di sviluppo, è sinonimo di progresso, è sinonimo di posti di lavoro. No, è sinonimo di distruzione di realtà, di beni economici, di beni ambientali, e distruzione anche delle possibilità di immaginare un futuro diverso. E questo qui davvero è gravissimo. Ora, certo, lo ripetiamo, non ce l'abbiamo con i turisti non sono la nostra controparte. La nostra controparte è l'industria turistica, è l'industria della turistificazione, cioè coloro che depredano, come si può dire, cioè quelle politiche neocoloniali di appropriazione delle ricchezze territoriali, delle ricchezze sociali, per i processi di accumulazione capitalistica. Il discorso è questo qui. Allora noi siamo profondamente antagonisti rispetto a questa visione che hanno gli speculatori, e con la complicità, purtroppo dobbiamo dirlo, abbiamo verificato anche di tanti amministratori locali, di tanti amministratori pubblici che non curano gli interessi della collettività ma si schierano secondo una parte ben precisa. La riflessione che facciamo in questi giorni a Firenze quindi verte sul turismo nei territori e nelle città. Ci chiediamo, beni comuni a Dio? È una domanda retorica, cioè li stanno sottraendo, però noi siamo appunto qui per impedirlo, per ripartire. Allora io lascerei la parola a Maria, che brevemente ci illustra un po' la rete Set Italia, e poi parla di un panista.